ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua, i Padri Eterni, come ogni settimana, un'ora intera per parlare di padri, per parlare ai padri. Radio24.it, il nostro sito, da lì potrete poi riascoltare e scaricare il podcast, potete scriverci padrieterni@radio24.it oppure la nostra pagina ufficiale di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24. Lo sapete, insomma, raccontiamo storie, cerchiamo punti di vista, cerchiamo anche di guardare un po' l'attualità, no? Con gli occhiali della paternità, portando soprattutto testimonianze, portando poi anche quella che è la nostra quotidianità. Matteo, è stata una buona settimana, per esempio? Ma guarda Fede, è stata una settimana molto particolare la mia, perché è stata la settimana in cui ho ricominciato gli incontri dal vivo per presentare il nuovo romanzo, e tu sai che per noi che scriviamo l'incontro con i lettori è fondamentale. Anche perché avevi passato i mesi precedenti a mandare firme in giro per l'Italia, quindi non ne potevi più, immagino. No, ma ti confesso che ero ragionevolmente preoccupato per i potenziali, sai, assembramenti, le distanze, invece mi sono trovato davanti a incontri molto frequentati, ma con persone rispettose, perfettamente distanziate, tutte con la loro mascherina su, moltissime famiglie, devo dire. Insomma, questa cosa mi ha rinfrancato anche da padre, a maggior ragione visto che ho portato per la prima volta con me anche mia figlia, che ha visto che anche gli adulti sono in grado di comportarsi bene, che si può fare. Eh sì, i nostri figli che sono lì che aspettano di capire cosa succederà a settembre, intanto guardano noi adulti. Ma per esempio, quando vai in questi incontri, dove appunto sei una piccola star, tua figlia non è gelosa? No, mia figlia non è gelosa e, a dirti la verità, non vede l'ora che sia finita. Ah, sì, eh? Sì, mentre io firmo viene lì costantemente a dirmi: papà, andiamo, mi dai le chiavi della macchina che ti aspetto là. E in tutto ciò, come mai, nonostante appunto un incontro pubblico, tu non ti sei tagliato i capelli ancora? Non ho ancora trovato posto dal barbiere. Ah, ho capito. Vai, partiamo con le nostre storie di papà e partiamo dalla maturità. Agli esami di maturità, quanto manca, e la voglia chi ce l'ha, ma non si scappa, prima o poi ti tocca, è come un countdown, corre e non si blocca. Tutti dicono, persino io ce l'ho fatta, tutti dicono, vedrai passi in fretta, peccato che ho Wikipedia sempre in testa, e sono secoli che non vado ad una festa. È anche il tempo di prendere la patente, passo il giorno a studiare ogni istante, non c'è tempo per fare mai niente, metto di nuovo la sveglia alle 7. È anche il tempo di sentirmi grande, che la prof mi ricorda sempre. Non pensare ancora alle vacanze, che se ti segano torni qui a settembre. Maturità, maturità. Sembra passata una vita, no, dalla maturità. In verità, insomma, sono passate poche settimane. Settimana scorsa hanno terminato gli ultimi orali, sono stati assegnati i voti, ed è il momento anche delle storie adesso, no? Storie che si scoprono sempre o durante o subito dopo, e come questa che è fantastica, arriva da Trinitappoli, siamo in provincia di Barletta, Andria e Trani, dove un'intera famiglia, mamma, papà e figlio, ma solo perché l'altro figlio sarà già diplomato lo scorso anno, tutti e tre insieme si sono diplomati quest'anno e tutti e tre hanno preso 100, cioè hanno fatto 300, hanno portato a casa come voto. E diamo il benvenuto al papà che è qua con noi, Nicola Sicoli. Ciao Nicola, buona domenica. Buona domenica a voi. Ciao Nicola. Buongiorno. Beh, non avete litigato su chi sia stato più o meno bravo, no? Avete portato a casa 100 tutti e tre, quindi su quello avete tratto un accordo. No, tutti bravi, tutti allo stesso livello. Allora, Nicola, se ho capito bene, tuo figlio appunto si doveva diplomare, tua moglie che non aveva il diploma ha scelto di fare le scuole serali, forse proprio spinta anche dai figli, e tu che già un diploma lo avevi hai detto: beh, se lo fai tu lo faccio anch'io, ti voglio accompagnare. Andata così? Sì, è andata proprio così, l'input è andata in questo modo, perché diciamo aveva un desiderio mia moglie di portare a termine un percorso che si era interrotto quando era ancora adolescente per motivi seri, e quindi mi ha chiesto se potevo diciamo accompagnarla. Io non ci ho pensato due volte, perché anche perché diciamo lei non ha questa possibilità di viaggiare, quindi dovevo in qualche modo fare un gesto di amore o altruismo, come di fare, insomma. Che effetto ti ha fatto prepararti per un traguardo così importante insieme a tua moglie e tuo figlio, no? Cioè, nel senso che di solito i genitori sono quelli che attendono un figlio, no, al termine di un percorso, per dirgli bravo. Al termine tu invece di questo, cioè com'è andata? Eri più orgoglioso tu di tuo figlio o era più orgoglioso tuo figlio di te? Ma non lo so questo, sinceramente, come non ho fatto questa domanda a mio figlio. Comunque di essere, sì, sono orgoglioso di quello che ho raggiunto, perché anche era inaspettato. Innanzitutto, diciamo, non era nel mio, nelle mie aspettative, perché certo. Diciamo che è venuto man mano durante il percorso degli studi, che poi ho dovuto, diciamo così, in un certo senso ho preso un po' sotto gamba la questione, poi col tempo invece ti sei convinto. Ho dovuto fare i conti con la realtà, che invece non era così molto semplice. Ascolta, durante il lockdown avete fatto quindi scuola a distanza tutti e tre in contemporanea da casa? Sì, abbiamo fatto scuola a distanza, sì. E com'era? Eri tu che dicevi a tuo figlio che doveva studiare? Era tuo figlio che diceva a te che dovevi fare i compiti? Come ve la siete gestita? No, per la verità sono talmente indipendente, talmente... cioè non ho dovuto fare niente. Okay. Loro, non hai neanche copiato da tuo figlio? No, non c'era niente da copiare, perché i compiti erano talmente diversi. Ah, ecco, perché erano diversi. Se no, pensierino. Devo essere sincero, qualcosina ho chiesto che non riuscivo a capire. Non lo metto in dubbio, comunque. Un lavoro di squadra, insomma, lavoro di squadra, esattamente. Esatto, il risultato ha pagato, perché insomma 300 mi sono un bel traguardo familiare. Grazie davvero, sì, Nicola, sì. Complimenti a te, complimenti a tua moglie, complimenti ai tuoi figli per questa bella avventura di famiglia, insomma una maturità formato famiglia. Grazie, ciao, buona domenica. Ciao Nicola. Buona domenica a voi. Noi ci fermiamo adesso, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. I was sleeping, gently napping, when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Oh my, and what shall we wear? Oh my, and who really cares? Just a New York conversation. Matteo, insomma, ci sono dei momenti topici, no, nella crescita di ogni figlio, di ogni figlia. La prima volta la prima parola che pronuncia, no? Quando impara a camminare, andare in bicicletta. Questa è una prima volta di quelle, però, che è la vera preoccupazione di ogni genitore. Questa frase che arriva. Arriva magari mentre siete in macchina, distrattamente, a tavola, quando porta a casa un bel voto, magari, perché poi ci sono anche le varie strategie, no? E la frase è questa: voglio il cellulare. Ed è, insomma, ed è panico in famiglia, anche se poi sono tante famiglie che sono loro per prime, no? Genitori che vogliono dare questo dispositivo di sicurezza, così lo definirei, il cellulare ai propri figli. Però voglio il cellulare, che non è solo una frase, non un desiderio, non è una richiesta, ma anche il titolo del nuovo libro di Giuseppe Laveni, un amico dei Padri Eterni, ricordiamo, psicologo e psicoterapeuta, presidente dell'associazione DITE, Dipendenze Tecnologiche, quindi nessuno meglio di lui può affrontare questo tema, con questo bel libro edito da Mondadori, che parla sia ai genitori che ai ragazzi, nel senso che la novità di questo testo sta proprio in questo doppio formato. Ciao Giuseppe, buona domenica, grazie per essere qua con noi. Buona domenica a voi. È un libro che ti farà amare più dai ragazzi o più dai genitori, nel senso è uno strumento che i ragazzi e che i bambini e le bambine potranno usare per convincere mamma e papà a comprare il cellulare? Guarda Federico, finalmente potrò rispondere con più tranquillità alla domanda che mi veniva fatta sempre, no? Mi veniva chiesto a tutti gli eventi che faccio in giro, a che età dare il cellulare, mio figlio è pronto o no? Ecco, alla fine l'ho scritto, così non mi arriverà più la domanda nei convegni, ma c'è un libro che dice quando il ragazzo è pronto e lo leggeranno e saranno costretti a leggerlo insieme, sia i papà sia le mamme e il figlio, appunto l'hai già detto, la novità è proprio questa, quella della doppia lettura, da un lato e dall'altro si legge una parte per i ragazzi che se compilano tutto avranno il patentino per utilizzare lo smartphone e quindi poterlo concedere, e dall'altro una parte per i genitori che devono avere consapevolezza di cosa regalano. E Giuseppe, noi padri siamo un disastro nella gestione di questo momento? Ma noi padri siamo un disastro, ti direi che noi padri lo forniamo con più leggerezza, molto spesso questo, lo smartphone, questo strumento tecnologico, e poi ci dimentichiamo che l'abbiamo fornito. Invece in questo forse le mamme sono un po' più attente, un po' più, ecco, ti direi forse preoccupate. Il papà molto spesso ha una visione un po' più, come dire, ottimista dell'utilizzo dello smartphone, ottimista anche ti direi. In realtà purtroppo sappiamo che dentro questo strumento ci sono tante cose positive, ma ci sono anche tanti rischi e noi dobbiamo essere al corrente di quello che forniamo ai nostri figli. Ma Giuseppe, quindi che domande deve farsi un padre quando deve decidere se e quando acquistare uno smartphone per il proprio figlio e quindi accondiscendere nei confronti di questa richiesta? Perché la sensazione, come diceva Federico, no, poi è che più che come dire, un'opposizione a questo strumento, a volte si tenda quasi a favorirlo, no? Perché diventa anche un dispositivo di sicurezza, come diceva Fede, quasi un meccanismo di controllo per far stare più tranquilli noi genitori. Ecco, quello che dobbiamo fare è proprio questo, cercare di non regalare lo smartphone solo perché noi ci sentiamo più tranquilli, perché quindi non stiamo facendo qualcosa che fa bene al nostro figlio, ma qualcosa che fa bene a noi. Quindi, come dire, per sentirci protetti noi, sicuri noi, diamo uno strumento che il nostro figlio magari non è in grado di maneggiare, e quindi funziona da ansiolitico per il genitore, ma stiamo dando uno strumento che magari il nostro figlio non è pronto. Una delle cose che, insomma, delle frasi che mi sento più volte dire è: ma se non gli do lo smartphone è escluso dalla società, no? Viene escluso, viene emarginato dai suoi amici perché ce l'hanno tutto. Anche qui è una leggenda, ovvero la stiamo facendo diventare noi un adolescente, l'adolescente lo stiamo facendo diventare sempre più noi nativo digitale, quindi glielo diamo sempre troppo presto. Probabilmente non gli stiamo facendo acquisire quelle che sono invece delle basi importanti, ovvero quelle delle competenze analogiche, no? Il non verbale, creare dei legami veri, stabili. E forse l'abbiamo visto anche col Covid, no? Quanto in realtà la tecnologia è utile, ma non riesce sicuramente a colmare il discorso della vicinanza, quella faccia a faccia, no? Quella vis-à-vis. Quindi ecco, noi genitori dobbiamo essere più consapevoli dello strumento, e soprattutto non possiamo dare uno strumento tecnologico solo perché pensiamo o abbiamo l'illusione che attraverso questo non accadrà nulla di male al nostro figlio. No, assolutamente. Poi ci sono le classiche domande, no, Giuseppe? Per esempio, password o non password, un padre, una madre devono poter vedere cosa c'è dentro al cellulare del proprio figlio? Sì, assolutamente. Io lo dico in maniera provocatoria, i nostri figli, insomma, come dire, quello che c'è dentro lo strumento tecnologico, la responsabilità è ancora nostra, almeno fino alla maggiore età. Quindi è giusto sottoscrivere una sorta di accordo perché non è una questione di privacy, è una questione proprio di tutela dei nostri figli e anche tutela di noi genitori. Quindi nel libro infatti c'è proprio un contratto da sottoscrivere fra i ragazzi e i genitori sull'utilizzo, sulle password da condividere fino a una certa età. Insomma, ci sono delle regole che il ragazzo deve dimostrare che è in grado di rispettare e solo dopo lo avrà a disposizione. Ma cosa si nasconde, Giuseppe, dietro alla richiesta del desiderio di uno smartphone? Cioè, perché arriva sempre prima? No? Cioè, c'è davvero questa paura che tu dicevi prima di apparire diverso rispetto ai coetanei, la paura di essere escluso? Oppure davvero invece la comunicazione oggi dalla socializzazione, ritrovi per gli allenamenti di calcio, ai messaggi per la scuola, passa tutta da lì? Ma i ragazzi intanto ci osservano. Osservando vedono esseri umani adulti che hanno uno strumento sempre in mano, e quindi, come dire, noi già l'esempio che diamo non è un granché, probabilmente. Dall'altro, forse mi ripeto, ma uno strumento tecnologico come lo smartphone dato a un ragazzo di 10 anni, 9 anni, considerate che lo smartphone oggi in Italia si dà tra i 9 e i 10 anni, quindi qua, prima di fare, diciamo, è uno dei regali della prima comunione, okay? Quindi si dà in un'età dove è importante socializzare con gli altri, ma non online. Cioè, non devono essere social i ragazzi di 10 anni, devono essere sociali, e quindi dobbiamo dargli in realtà noi adulti strumenti per fargli acquisire quella competenza relazionale. In realtà, dando sempre prima lo strumento, loro saranno sempre più bravi a parlare con o a comunicare attraverso uno strumento tecnologico, quindi attraverso la mediazione in uno strumento tecnologico, ma sempre meno capaci, ahimè, di cogliere poi lo stato d'animo degli altri, perché lo stato d'animo degli altri, per esempio, si coglie e si percepisce solo stando realmente uno accanto all'altro. La comunicazione, come dire, analogica, il non verbale, noi ci abbiamo messo milioni di anni per acquisirla, per apprenderla, per poterci capire senza dire una parola. Ad oggi, con questo strumento tecnologico, se ci abituiamo e arriverà sempre prima, noi quella competenza lì piano piano andremo a perderla. Certo. E questo è un grosso rischio. Assolutamente. Giuseppe, un'ultima domanda che è legata a questa parola, no? Che dà anche il nome alla tua associazione, cioè dipendenze. Lo smartphone può creare dipendenza? Quando un padre, quando una madre si devono allarmare? Beh, lo smartphone può creare dipendenza, in alcuni casi anche dipendenza fisica, per esempio per quanto riguarda tutta l'area della messaggistica, dei social, WhatsApp per esempio, o qualunque social network, perché attiva un processo che si chiama processo dopaminergico, che si attiva anche quando ad esempio si utilizzano le sostanze come un alcaloide come la cocaina o nel gioco d'azzardo patologico. Quando si attiva questo processo fisico, questo processo appunto dopaminergico che attiva velocemente il meccanismo compulsivo? Si attiva quando noi per esempio mandiamo un messaggio e attendiamo che l'altro ci risponde. Okay. E allora noi compulsivamente andremo a vedere quando arriverà questo messaggio, questa notifica. E però è la stessa dinamica che innesca il giocatore d'azzardo patologico quando mette una monetina in una macchinetta, in una VLT, e attende la risposta. Non diventa compulsivo perché vuole vincere, diventa compulsivo perché attende una risposta, quindi attiva un processo fisiologico che si chiama appunto processo dopaminergico, un processo di ricompensa che poi rilascia le endorfine e ci fa stare bene. Quindi noi seggiamo qualcosa di positivo a qualcosa che in realtà poi non lo è. Assolutamente. Giuseppe Lavegna, voglio il cellulare, quando, quanto, come, tutte le risposte in questo bel libro edito da Mondadori, dipendenze.com invece per tutte le informazioni circa le attività dell'associazione di dipendenze tecnologiche. Ciao Giuseppe, buona domenica, grazie per essere stato con noi. Buona domenica a tutti. Ciao ciao. Noi adesso ci fermiamo nel momento della pubblicità, il meteo poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. The hardest part buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua, i Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito Padri Eterni @radio24.it, se volete scriverci, oppure la nostra pagina ufficiale di Facebook. I Coldplay, per annunciare il prossimo ospite, so che non è, non lo so se sia uno dei suoi gruppi preferiti, ma è uno dei gruppi preferiti del figlio. E tu sai che le playlist dei figli entrano. Ma io l'ho sperimentata camminando, appunto, la scorsa settimana, facendo trekking, che ogni tanto si ascoltava musica mentre si camminava e sceglieva lui i pezzi. Le playlist dei figli governano il nostro presente. Sì. E se lui è uno dei musicisti più famosi al mondo, con la sua tromba, sono brividi, ma non solo con la sua tromba, proprio con la sua visione di musica, insomma, riuscirà a lasciare anche questa libertà, no? Dell'ascoltare la musica preferita dei figli durante i loro viaggi. E ci sembrava un bellissimo inizio di chiacchierata. Diamo il benvenuto a Paolo Fresu. Ciao Paolo. Buongiorno, buona domenica a tutti. Sì, come dire, confermo la predizione di mio figlio Federico. Non stai prendendo le distanze? No, assolutamente no. Devo dire che attraverso mio figlio, devo dire, scopro della musica, e scopro della musica molto bella, perché lui è un grande appassionato dei Beatles, ovviamente, ma i Beatles li conosco anch'io, come conoscevo i Coldplay. Però ogni tanto mi fa ascoltare: papà, hai sentito questo pezzo nuovo, l'ultimo single, eccetera eccetera. E quindi per me è un'occasione straordinaria per essere anche al passo e ascoltare anche magari quelle cose che, seppur belle, perché sono molto belle le cose che ascolta mio figlio, non ascolterei altrimenti. Quindi, insomma, la vedo anche dalla parte egoistica del padre che cerca di imparare. Ma la musica è diventata appunto un campo di gioco comune col tuo figlio. Ti ha aiutato a essere padre la musica, Paolo? Assolutamente sì. Beh, direi che io dico sempre che la cosa più bella dopo l'essere padre è la musica, perché credo che l'essere padre sia in assoluto la scoperta più incredibile, l'obiettivo raggiunto più straordinario. Poi viene la musica. Prima veniva la musica, poi ho scoperto che la paternità dà un senso alla musica, ovviamente come la musica senso alla paternità, soprattutto per un musicista come me, che gira per il mondo, che vede tante persone diverse e che poi porta a casa quello che ha vissuto, quello che ha visto, porta a casa, raccoglie quello che ha visto con gli occhi e quello che ha sentito con le orecchie, che non sono solo gli oggetti, ma sono anche le relazioni, i rapporti. Quindi mio figlio ha sempre vissuto, ho 12 anni, ha sempre vissuto con persone di tutte le razze, di tutte le religioni, persone che parlano apertamente di tutto, e questo sia un bellissimo insegnamento. Quando poi la musica diventa anche parte dell'attività della scuola, perché noi abbiamo accompagnato lui fin dalla scuola materna e abbiamo creato un progetto con mia moglie che si chiama Nidi di Note, proprio per portare la musica nella scuola, e poi quando siamo andati alle elementari, notte elementari, chissà dove arriveremo dopo, e questo fa sì che poi la musica diventi parte della nostra vita di famiglia e la nostra famiglia alimenti poi la musica. Penso che questa sia la vera dimostrazione del quanto poi la musica sia fondamentale nella nostra comunità. Ma Paolo, ma infatti tu hai detto anche, no, al di fuori della famiglia, che la musica è anche uno strumento sociale e politico prezioso per contribuire al cambiamento del mondo. E forse mi viene da dire, no, mai come in questo momento abbiamo bisogno di strumenti che ci aiutino a immaginare o a creare un futuro diverso. Ci spieghi in che senso, per te da musicista, ma soprattutto da padre che ha a cuore il futuro dei propri figli, in che senso la musica può fare la differenza? Ma la musica fa differenza perché ci permette di conoscerci meglio, e dunque permette poi di conoscere meglio anche gli altri, perché quando ci conosciamo meglio siamo capaci di comprendere che gli altri sono uguali a noi. Sembra una banalità, ma non lo è, soprattutto oggi in cui c'è questa strana diffidenza nei confronti dell'altro, l'altro che arriva dall'altro mare, oppure l'altro che arriva da un'altra cultura, o che arriva da un colore di pelle diverso. Per cui la musica è fondamentale, poi musica significa bellezza, il senso della bellezza deve sempre albergare nel nostro presente, e anche in questo momento così difficile che stiamo vivendo, credo che la musica abbia aiutato tutti noi a vedere il bello dove apparentemente non c'era. E ricordiamo i primi di marzo, quando uscivamo tutti nei balconi a dimostrare quanto la musica fosse necessaria proprio per ricucire quella frattura che si era creata, no? E c'è questa cosa molto bella, trovo, alla fine di tutto, perché la bellezza bisogna cercarla anche dove non c'è, o dove apparentemente non c'è. il virus si muove tuttora, anche se meno nell'aria, e però noi poi chiudiamo le nostre porte, chiudiamo le nostre finestre, siamo costretti a inventare una socialità nuova attraverso la rete. La musica si muove ugualmente nell'aria, ma a differenza del virus fa sì che poi noi si possa andare a bussare idealmente nelle porte degli altri e si chieda di aprire le finestre affinché poi questa emozione della musica possa passare. Ecco, credo che queste siano tutte ragioni per dimostrare, per raccontare quanto la musica sia fondamentale per noi. Ovviamente poi non solo la musica, ma anche la cultura e l'arte, che sono parte della nostra vita. Paolo, in questi giorni c'era una tua bellissima intervista sul Sole 24 Ore a firma di Stefano Salis, dove appunto racconti tanto di te, racconta anche dei tuoi inizi, della tua famiglia, del come hai incontrato la musica. Tuo padre era pastore, non arriva da lì quindi l'amore per la musica, o anche papà dei meriti per appunto averti fatto ascoltare delle prime sonorità? I miei genitori hanno sì dei meriti, persone molto semplici, appunto, che lavoravano la terra, erano pastori e contadini, ma appassionati di musica, e quindi loro erano molto fieri quando io ho iniziato. Io ricordo perfettamente quando sono entrato nella banda musicale, perché grazie alla banda che poi sono diventato musicista, e grazie alla banda dunque che è nato anche a Berchida un festival di jazz che inizierà adesso il 9 di agosto coraggiosamente al tempo del coronavirus. Quindi confermatissimo il festival. Confermatissimo, e che compie 33 anni di vita, quindi insomma anche un numero importante, e io ricordo perfettamente il viso e quasi le lacrime di gioia solo mie a 11 anni il primo giorno che ho ricevuto la divisa della banda, che ho ancora, bellissima divisa rossa con i lustrini, con la lira dorata, eccetera. Ricordo non solo la mia emozione, ma poi quella dei miei genitori, perché mio papà mi ha detto a un certo punto: Paolo, fai quello che vuoi nella vita, ma non fare il pastore. Siccome loro avevano fatto molti sacrifici per farmi studiare, io sono un perito elettrotecnico, per quanto oggi non sia capace di avvitare una lampadina, ma quando poi sarei stato assunto, perché ero uno dei più bravi di tutto l'istituto in quel periodo, le grandi aziende bussavano alle porte degli istituti professionali semplicemente per dire quali sono i migliori allievi, noi li assumiamo. Oggi purtroppo sarebbe un po' diverso. Io sono andato a fare il colloquio, ho detto di no, nonostante i sacrifici fatti dai miei. Quando sono tornato a casa, mio papà mi ha detto: beh, e allora come è andata? Io ho detto: papà, ho deciso che non voglio fare il perito e voglio, pur non avendo un futuro davanti, fare musica. Lui mi ha detto: se questa è la tua scelta, che questa sia. Per cui insomma mi hanno molto aiutato, nel senso che hanno soprattutto aiutato le mie scelte, anche quelle che apparentemente per loro potevano essere incomprensibili. Credo che questo sia molto bello e anche molto giusto, soprattutto se accade e arriva attraverso delle persone che avevano poco studiato, per quanto mio papà avesse voluto studiare, poi ha scritto libri, ha soprattutto raccolto 25.000 lemmi, parole sarde che si stavano perdendo, che io poi ho raccolto in un vocabolario di sardo italiano. Fantastico, fantastico. Paolo, grazie davvero per aver condiviso con noi questo tuo pezzo di storia, no? Il tuo essere figlio, il tuo essere padre. Ricordiamo il festival, questa 33esima edizione, hai detto tra un mesetto, no? Dal 9 agosto. Dal 9 al 16 di agosto, e tra l'altro, visto che siamo in tema, se ho proprio un secondo, ogni anno nel nostro festival c'è un tema, sì. Questo anno sarà il tema dell'anima. E il tema dell'anima, perché avrebbero dovuto essere presenti a Berchida anche i 100 cello, sguidati magistralmente da Giovanni Solli, ma ed Enrico Melozzi, però ovviamente purtroppo il tempo del coronavirus ci impedisce di portare 100 violoncellisti sul palcoscenico. Lo faremo il prossimo anno, e questi 100 violoncellisti avrebbero dovuto vivere per 3 giorni nelle case dei compaesani, dei berchidesi, quindi sarebbero dovuti essere nelle case a figlio e anima, cioè figli d'anima, per tornare al tema dei padri e dei figli, perché quando da noi una persona, soprattutto un ragazzo, un giovane, viene preso ospite in un'altra famiglia, si dice che viene preso a figlio e anima. Come l'anima è un oggetto misteriosissimo, bellissimo, che sta dentro gli strumenti ad arco, per mantenerli in vita e per trasportare il suono, abbiamo pensato che il tema dell'anima e questa metafora dei figli d'anima sarebbe stata la migliore per animare questa edizione di Time Jazz. Grazie vero Paolo, ti salutiamo con le tue note. Ciao e buona domenica. Grazie e buona domenica a voi. Ringraziamo ancora Paolo Fresu, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Padri Eterni. Ci avviamo verso la chiusura di questa puntata, lo facciamo con un tema tosto, Matteo, che è quello delle punizioni, ahimè, insomma, che in ambito educativo, no? C'è la punizione. Sì, ma tema del tutto contemporaneo, no? Perché quante volte ancora oggi continuiamo a sentir dire che un buffetto ogni tanto, tutto sommato, non fa mai male, che una volta, no, quando c'era anche la punizione corporale, e sono luoghi comuni che sono durissimi a morire, ahimè. E che poi sai, la punizione a volte sì, c'è lato fisico, ma poi ci sono parole, no? O atteggiamenti, certo, che fanno ancora più male. C'è la mortificazione poi che è conseguente alla punizione. Io sono pessimo nelle punizioni, nel senso che ne ho date pochissime, in effetti. Forse sono uno di quelli che ne ha date anche troppo poco, ma forse non esiste il troppo poco, no? Siamo proprio sui luoghi comuni. E visto che è un tema, come hai detto bene tu, assolutamente contemporaneo, ne parliamo prendendo spunto da una scuola per genitori che si sta tenendo a Varese, è organizzata dal CCP, il Centro Psicopedagogico per la Gestione dei Conflitti. 3 incontri, 2 si sono già tenuti, uno sull'utilizzo dei videoschermi, regole, opportunità e limiti, il secondo sul separarsi e rimanere buoni genitori con Daniele Novara, mentre mercoledì 15 ci sarà la terza serata intitolata «Punire non serve a nulla». Come educare i figli senza mortificarli sarà tenuto da Emanuela Cusimano, che è pedagogista ed esperta nei processi formativi, che è qua con noi. Ciao Emanuela, buona domenica. Buona domenica, eccoci qua. Allora, punire non serve proprio a nulla o ci sono certe punizioni che proprio non servono a nulla? No, è proprio in generale, punire non è funzionale, non aiuta i bambini e i ragazzi a rimanere in qualche modo sintonizzato e imparare quello che i genitori si aspettano. Noi siamo in un'epoca che ha dato molta importanza ai bambini, siamo tutti molto attenti, però come avete già detto voi, ci sono delle abitudini dure a morire che ci trasciniamo dagli ultimi anni, gli ultimi 50 anni in qualche modo. Quindi siamo passati, tutti ricorderanno nei racconti dei nostri genitori, anche dei nonni, anche a scuola, le famose punizioni corporali che adesso a scuola non ci sono più, ma per esempio l'Italia è uno dei pochi paesi che a livello familiare non vieta le punizioni anche corporali ai figli, quindi non c'è una legge che al momento vieta questo. In questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi c'è una discussione per esempio in Scozia su questo punto, però noi non siamo ancora arrivati a dirci che la sculacciata non serve. Però diciamo che le punizioni principali sono quelle legate ai castighi, quindi se e alle privazioni. o all'urlo, ecco, quando un bambino la combina grossa, un adolescente la combina grossa, ecco, il genitore perde la pazienza e quindi scatta l'urlo, scatta il castigo. Il nostro punto di vista, il punto di vista del Centro Psicopedagogico per l'Educazione di Piacenza, per cui appunto lavoro da tanti anni, diretto da Daniele Novara, è quello che le punizioni, le urla non servono ai bambini per crescere, ma sono mortificanti. Emanuela, senti, ma perché in questi processi costanti, no, a cavallo tra la nostalgia quasi e il revisionismo pedagogico, resiste quest'idea, non lo dicevo in apertura, che in fondo un buffetto ogni tanto non può fare che bene, che per una sberla non è mai morto nessuno, fino al proverbiale e becero da piccolo te ne hanno date troppo poche, no? Cioè, perché resiste quest'idea di identificazione tra la violenza e invece una certa sana disciplina, insomma, che d'accordo, quella serve? Perché in realtà dovete pensare che cambiare registro e andare su un altro piano è molto più complicato, è più faticoso, è molto più semplice e più liberatorio per il genitore andare sulla strada del passato, perché andare sulla strada del futuro vuol dire sintonizzarsi con l'età dei propri figli. E peraltro tutte informazioni che oggi abbiamo, cioè oggi sappiamo cosa succede a un bambino di 3 anni, un bambino di 6, un bambino di 12, a un preadolescente, un adolescente, abbiamo le informazioni giuste, però bisogna, come dire, prenderle in considerazione e soprattutto avere una coesione educativa, che vuol dire fare gioco di squadra con le altre figure che insieme a noi educano il bambino e il ragazzo, quindi parlo appunto tra i genitori o gli adulti che educano il bambino o il ragazzo, i nonni, quindi molto spesso per non aprire delle conflittualità interne ognuno fa come meglio gli viene e in realtà pesca dall'educazione ricevuta. Si va a replicare un modello. Ma Emanuela, esatto. in questo gioco di ruoli, anche in una visione un po' cristallizzata, un po' legata al passato, come dicevi tu, dell'educazione, spesso è il padre quello che ha il ruolo del punire, no? È ancora così? E hai qualche consiglio pratico appunto da dare a noi padri sul come essere buoni educatori? Anche laddove appunto ci sia necessità di un intervento che sia magari un po' più deciso, un po' più importante, un po' più significativo. Ma in realtà la cosa un po' paradossale degli ultimi tempi è che se una volta si diceva come minaccia arriva il papà e poi lo diciamo al papà e vedrai cosa succede, ultimamente ecco i ruoli si sono un po' invertiti, quindi queste, la mamma ha una figura molto forte nell'educazione dei figli e invece il papà ultimamente ha fatto un po' un passo indietro, viene spesso identificato come il compagno di giochi, cioè che va benissimo nel senso che è nel ruolo del padre quello di avere la dimensione della scoperta e dell'esperienza soprattutto dai 6 anni in poi, ecco, il ruolo della madre è molto concentrato nei primi anni di vita, ultimamente invece la madre o comunque più che la madre il codice materno, quindi una sorta di accudimento, no? Di protezione verso il bambino sta andando oltre l'età utile per il bambino stesso. Il padre, sia il padre che la madre devono avere un ruolo diciamo non autoritario ma autorevole e come dicevo prima fare gioco di squadra, nel senso che in questo caso le regole la fanno da padrone, quindi se il bambino o il ragazzo sa di preciso come potersi muovere in una certa circostanza, questo lo aiuta a capire o aiuta i genitori a capire quando il bambino o il ragazzo non ce la fa, perché non ce la fa. Quindi se io do in mano a mio figlio uno smartphone o la PlayStation, non posso pensare che il bambino sia autorevoli, perché non ha le capacità per farlo, quindi faccio io da contenitore e do io delle regole, ma le regole non sono quando mi sembra che sia troppo ti dico di smettere di spegnere o ti tolgo il telefono, devo pensarci prima. Nessuno dà in macchina una macchina, un'automobile, non ha preso la patente. Vanno spiegate, invece, contestualizzate, condivise. No? Assolutamente, invece diventa una privazione, una mortificazione, una punizione, quindi tra l'altro a volte neanche sintonizzata con la, col guaio che il bambino ragazzo ha combinato, quindi quanti hanno rotto qualcosa in casa, quindi giocando a pallone hanno fatto cadere, non so, il vaso, rotto la televisione o il quadro, e la privazione è ti tolgo il telefono. Ecco, capite che, sì, sì. Che cosa c'entra in qualche modo per far comprendere al ragazzo che magari in casa non si gioca a palla. Certo. Ecco, questo chiarissimo, insomma, insomma sì. il tema è caldo, insomma ci sono veramente tantissime declinazioni, torneremo sicuramente su questo argomento. Ringraziamo Emanuela Cusimano, ricordiamo la scuola per genitori del centro psicopedagogico per la gestione dei conflitti, tutte le informazioni sul sito cppp.it. Ciao Emanuela, grazie, buona domenica. Sì? La scuola è anche online, quindi in questo periodo ci può collegare anche da casa. Perfetto, ottima dritta. Bene. Grazie, ciao, buona domenica. Ciao, ciao. A voi. È il momento dei saluti, un grazie a tutta la squadra di Radio 24, Guido Scotti oggi in assistenza, Carmelo Lauricella alla parte tecnica, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, radio24.it il nostro sito, da lì potrete scaricare il podcast, padreeterni@radio24.it. Se volete scriverci, ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana e a domenica. L'appuntamento come sempre a domenica prossima alle 11. Ciao! Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.